and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. E adesso basta felicità, basta allegria, basta perché? Partecipare. Ma cosa c'è? Perché? Come perché? Basta Drago, felicità. È lunedì. Ah, è lunedì. Certo, certo. Lunedì sei così intrattabile, guarda, meglio nemmeno continuare a fare il programma. Io me ne vado, rimani no, qua tu fai il programma e io sto qua e ti guardo. Perché mi devi guardare? Tito, dai, vabbè. Allora, cominciamo dalla crisi libica, che tanto che va bello. Sempre bene. Sì, sì, Giappone, crisi libica, sempre di moda. Quelle va sempre bene. Allora, come tutti sanno, la recente crisi libica ha mandato in crisi anche il nostro amato leader, caro leader, ops rettifico, il nostro bambino premier. Vorrei vedere te. Ma dai, cosa? Ma come cosa? Mi bombardassi tu, un amico personale. Ah, cosa del genere? Tipo così io bombardassi non sei mai Kappa. Visto. No, vabbè. Certo. Però infatti è una crisi nera per la coscienza del povero premier, che più poi, che una crisi insomma, internazionale. Ma no, bastava che dicesse no però, come ha fatto la bambina Merkel. Ma tu hai mai visto un nine? Italiano dire no, nine o no? Agli americani, mai successo? No, beh, uno me lo ricordo, ma non si può dire. Ah, tu intendi lui? Sì, il lui degli anni Ottanta. Ah, sì, certo. Cioè, non quello del ventennio nemmeno questo qua. Il lui, quello là. Quel lui là, sì, ho capito, però non fare nomi specifici che poi succedono cataclismi naturali e non è questo il momento, non abbiamo bisogno. Aveva, che tra l'altro aveva proprio detto di no a un attacco a Gheddafi, quindi stessa, diciamo, si vede che anche lui e Gheddafi erano perché amici, l'amicizia no? Era sacra per lui. Sì, un po' meno per gli altri, perché vedi bambini Martelli amato, però vabbè, non sembra che i sentimenti fossero ricambiati all'epoca, però vabbè, così. Invece Gheddafi ricambiava Berlusconi. Dici? Era tutto un farsi i complimenti, darsi di gomito, vieni nella tenda, facciamo il botulino insieme. Adesso il bambino premier da una parte dice che va bene stare con la NATO e dall'altra però in privato alla Merkel ha detto sì, tu hai fatto bene perché mi dispiace per il povero Muammar. È indeciso. Sì, anche lui in fondo è vittima della sindrome l'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui per muore di fame. È morto. E ora, bambini, ricreazione! Oh, ricreazione! Drago, quasi quasi per il mal di schiena, bisogna stare sdraiati sul duro. Mi sdraio qua sul prato e evito la cacca di però, Tito, che attento, aspetta, la sposto, ce l'hai in fazzoletta. Attento alla cacca, sì, e attento alla cacca e soprattutto attento che non ti becchino coricato, perché noi non ci pagano mica per stare qui tranquilli ma sul prato. Ma cosa vuol dire ci pagano? Poi gli sti loro chi sono? Loro ci pagano. I nostri datori di lavoro, caro Kappa. Voi due, invece di fare queste scene, perché non mi date una mano? Guardalo lì, sempre con le stampelle. Ma quando è che guarisci? Che palle! Ma cosa ne so io? Io qui l'unica cosa sicura è che faccio una fatica tremenda per fare ogni cosa. Infatti fai il meno possibile. E beh, per forza, il piede ingessato. Cioè, mi muovo proprio in casi... Cioè, se devo, no? Tipo ho capito. E che cosa devi fare adesso? Dove adesso devi andare? Devo fare la pipì. Vabbè, allora ti accompagno io. Dai, ti accompagno. Ma sai una cosa, Drago? Per come lo conosco io, il bambino Alberto non si trova mica male col gesso, capito? Kappa, cosa dici? Come cosa dico? Non ti auguro che succeda la stessa cosa a te. Ma dai, bambino al peggio. Pigro, ragazzi. Sei, il piede rotto è la scusa ideale per non far più niente. Sei lì che fa finta di intervenire. Ma basta, ma perché dici queste cose? Perché è così? Io sono infortunato. Vabbè, dai. Cioè, io, oggettivamente, non posso fare determinate cose. No, non puoi fare niente. Non litigate. Non fate i bambini, zitti. Vabbè, ma come faccio io a non fare il bambino? Vabbè, intanto smettila di far la vittima. Solo perché hai il piede ingessato non puoi far questo, non puoi andare a prendere la cosa. Scusa. Cosa? Fai anche finta di impegnarti. Basta con questa storia della vittima, eh? comunque lasciami andare che mi scappa. Dai, sì. Appunto, vedi che se vuoi vai, vabbè, no? Per fare la pipì ti muovi, per prendere un bicchiere d'acqua invece ti metti lì bello comodo con la gamba appoggiata su una sedia e gridi: suora, acqua, acqua, suora. Comoda la vita. Ma ho il piede rotto. Vabbè, ma è rotto per modo di dire. Cioè, sembra che non lo vuoi capire. È il metatarso. Cioè, non è che avere il piede rotto e avere il piede sano è la stessa cosa. Cioè, questo riesce a capirlo? Vabbè, no? Dai, Albertino, tranquillo, è solo K che non riesce a non mettersi al tuo stesso livello quando parla con te. Cosa è quello lì il problema. Già, cosa vuol dire? Vuol dire che è così, non riesci proprio a non diventare un bambino anche tu. E meno male che sono un bambino, se no sarei un rimbecillito come voi due. No, rimbecillito sarai tu col piede rotto. Anche tu. Chi lo dice lo è. Ma anche tu l'hai detto. Vabbè, ma ragazzi, sì, ma l'hai detto prima tu. Ma non ho capito. Ma prima rotto. Dopo cosa c'entra? L'hai detto tu. Chi lo dice lo è? E allora l'hai detto anche tu. Vabbè, dai, stito, ecco, smettetela tutti e due, per piacere. E poi, no, tutti e due, io intanto il piede rotto. E voi non potete trattarmi così, dai. Ma lo vedi, vedi che usi il piede rotto per invocare un trattamento di riguardo speciale, solo perché hai il piede rotto. Sei tu che sei geloso. Ma sì, geloso. E certo. Ma di geloso di cosa? Geloso del mio gesso. Geloso del gesso. Vabbè, guarda, sì, che però... questa è bella, il gesso. Beh, non è mica tanto stupida, questa considerazione. Ma cosa dici? Che tu sei geloso del gesso del bambino. Alberto. Ma chi? Io geloso? Ma perché dovrei? Ma perché i bambini sono sempre un po' gelosi, invidiosi dei gessi, dei cerotti altrui. E tu vuoi mica fare eccezione a questa cosa? E questa secondo te è una spiegazione? Non lo so. Ma smetti. Vabbè, sei invidioso perché vorresti essere tu ingessato per ispirare compassione e coccole, no? Ma quali coccole? Vabbè, comunque così comunque. Sei geloso del gesso del bambino alto là. Alto là? Alto là. Ma come sarebbe alto là? Io mi chiamo Alberto, sì, dai! Lo sappiamo, sì. Ah, Alberto, hai detto mille volte. Certo, AD autistico, sì. L di lisergico. Ma lo sappiamo come noi, bambino. Basta, no. Me la devo cantare? No, grazie, basta. Ma sì, dai, l'ha cantata mille volte già. Ma lasciagliela cantare, almeno sta zitto, no? Come fa a star zitto se la canta? Ah, già. Dai, 1, 2, 3. A, L, B, E, R, T, O. A come autistico, L di lunatico, B di bambino come me, E come esagerato, R come rimbambito, T come te e poi O come ho 30, A di ansiolitico, L di lisergico, B come bunga bunga, bingo bongo bamba, E come elementare, R sonda rottamare, T come tre e poi O come orchidea. Bravo, bravo, bravo. Grazie, però, grazie. Però, cosa? No, mi sa che me la sono fatta addosso. Per forza, ti scappava, ti ma sei messo a cantare tra l'emozione e tutto quanto. Ho capito, ma adesso? Adesso cosa? Adesso chi mi cambia? Io no. Io nemmeno. Vabbè, ma allora chiamate qualcuno, no? Una suora, una signorina. Lo vedi, vedi, sempre col vittimismo. Sì. Ma arrangiati, no? Ma mi sono abbisciato addosso? Ma no, il parolacciometro, ho il piede rotto. Vabbè, lo stesso. Ma come faccio? Niente, la ricreazione è finita, ciao bambino al bagnato. Ciao. Vabbè, ma uè, come mi ha chiamato? Al bagnato? Non è che forse mi stava prendendo per il culo? Ci sono molte polemiche contro i colossi dell'abbigliamento intimo Abercrombie and Fitch, abbreviato in A&F, per colpa di un reggiseno. Ma i reggiseni bisogna stare attenti. Come? Cioè, se spunta un reggiseno, tipo a casa tua, sì, un reggiseno non previsto, forse sì. Scatta subito lo scandalo sessuale. Figurati in una fotografia. Cioè, i reggiseni bisogna stare lontani dai reggiseni. Sì, però nel nostro caso, qui, nel caso della A&F, nessun gossip e nessuno scandalo sessuale legato ai reggiseni. Semplicemente questa azienda ha avuto la sciagurata idea di realizzare e pubblicizzare un reggiseno per bambine di 8 anni. Un reggi? Seno. Ma quale seno? Appunto, forse questi di Abercrombie & Fitch pensano che le donne abbiano le tette anche a 8 anni, per una strana illusione collettiva. Non so. E non lo so, in realtà c'è il tempo per ogni cosa, come diceva l'Ecclesiaste, no? Chi? L'Ecclesiaste. Ma anche i Birds lo dicevano. Turn, turn, turn, la famosa canzone. There is a time. Sai qual è? No. È presa paro paro dall'Ecclesiaste, dalla Bibbia. Vabbè, ma lasciamo perdere l'Ecclesiaste e la Bibbia. C'è un tempo per ogni cosa. Certo, scusa, il reggiseno ha una bambina di 8 anni, come se tu dicessi a un bambino di 8 anni, cioè, fatti il riporto, va, che tanto poi alla fine i capelli ti cascano. Tutti senza soldi, tutti appesi a un filo. Qui ogni certezza si vende un tanto al chilo. Chiedo asilo. T'ho fregato, testa di gelato, sono un po' cattivo eppure recidivo. Chiedo asilo. Torniamo domani. Ah sì? Eh sì. Ancora torniamo domani. È tornato di moda. Tipo la mazza ferrata, che è quella che ti darà in testa.